Europa 24. La Commissione europea ha stanziato 10,7 milioni di euro di fondi di emergenza alla Slovenia per far fronte alla crisi dei migranti. Intanto il governo svedese ha notificato ufficialmente a Commissione e Consiglio europeo la sua richiesta di beneficiare dello schema di ricollocamenti dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione, come già avviene per Italia e Grecia. Nella sua domanda Stoccolma non indica il numero dei profughi che chiede di ridistribuire. E durante il vertice informale europeo sui migranti, il 12 novembre a Malta, Varsavia sarà probabilmente rappresentata solo da un ambasciatore. Lo ha detto Witold Waszczykowski, probabile futuro ministro degli esteri nel governo di destra che ha vinto le elezioni. Il capo di Stato Andrzej Duda avrebbe infatti convocato la prima seduta del nuovo Parlamento polacco proprio il 12. Perché Tusk ci fa un dispetto creando problemi alla fondazione del nuovo esecutivo, ha commentato Waszczykowski. Addio agli OGM per 19 paesi europei. Ieri scadeva il termine entro il quale le aziende biotech avrebbero potuto presentare ricorso contro il divieto, ma nessuna lo ha presentato. E così l'Italia, insieme ad altri 18 paesi, chiude definitivamente la porta alle coltivazioni OGM, nonostante siano autorizzate da Bruxelles. Ma basta vietare la coltivazione nel proprio paese per non mangiare OGM o per non vederli circolare sul proprio territorio? Alessandra Schepisi ne ha parlato con Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza. Una cosa è certa, la normativa che abbiamo fatto sul piano comunitario a Bruxelles è una normativa chiara, è una normativa che consentiva agli Stati membri e garantiva agli Stati membri la possibilità di non avere coltivazione OGM sul proprio territorio. Le imprese hanno riconosciuto questa opzione, questa possibilità e non hanno fatto ricorso, riservandosi ovviamente di dare la possibilità di coltivare gli OGM negli altri paesi. Quindi ci saranno alcuni paesi comunitari dove si coltiveranno OGM. Sono i paesi non hanno fatto ricorso perché l'avrebbero perso in sostanza. E non c'è dubbio che la nuova normativa serviva a dare una certezza, un quadro giuridico di riferimento per cui potessero non esserci più ricorsi alla Corte di Giustizia. Basta vietare la coltivazione nel proprio paese per non mangiare OGM. Questa è una cosa profondamente diversa, perché intanto non abbiamo la presenza di organismi geneticamente modificati nei campi. Avremo comunque la presenza all'interno dei paesi di organismi geneticamente modificati, perché nulla è vietato in termini di commercio, purché sia scritto anche in etichetta, in modo evidente, che un prodotto è ottenuto con l'impiego di semi OGM, ad esempio. Prima visita ufficiale in Iran di un presidente di un'istituzione europea. Sabato infatti il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz andrà a Teheran, dove incontrerà fra gli altri il presidente Hassan Rouhani. L'obiettivo della missione, che durerà un solo giorno, è intensificare il dialogo fra UE e Iran. È arrivata in Burkina Faso l'eurodeputata italiana del PD Cécile Kyenge, a capo della missione di osservatori delle elezioni che si terranno il prossimo 29 novembre nel paese africano. Al microfono di Sergio Nava, la Kyenge spiega come si articolerà la missione comunitaria. La missione dell'Unione Europea è una delle missioni più importanti. Noi in realtà siamo qui già con una squadra di analisti che era già qui dal 5 di settembre e che non è andata via neanche quando c'è stato il colpo di Stato, proprio per far vedere che noi siamo a sostegno del paese, del popolo burkinabè, delle istituzioni per accompagnarlo in un processo, nel processo elettorale. Il nostro compito è proprio questo, un accompagnamento al processo elettorale. È una missione tecnica dove l'Unione comunque ha scelto di mettere un deputato, un parlamentare, anche come una risposta politica, ma la missione è una missione tecnica. Allora, noi abbiamo una missione di lunga durata, è una delle poche missioni, quindi abbiamo degli osservatori che sono qui già prima che vanno su tutto il territorio, quindi in 13 regioni, e io adesso sono qui proprio per lanciare la missione di lunga durata con gli osservatori che devono andare nelle 13 regioni. Poi c'è quella corta di breve durata che è a ridosso appunto delle elezioni, quindi vicino al 29 insomma, di novembre. La particolarità è che noi facciamo un'analisi completa, capillare di tutto, non semplicemente del giorno dell'elezione, ma di tutto il processo. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.